Allora possiamo iniziare. Io, come sapete, sostituisco indegnamente il professor Simonicca che sta in Germania e io ho seguito questi lavori, i lavori di questo seminario pochissime volte, quindi non riesco a tirare le fila del discorso. Sinceramente è anche la prima volta che conosco la dottoressa Scicchitano, quindi non la presento neanche io, ma lascio la presentazione alla dottoressa Mariotti, che invece come antropologa conosco meglio e che conosce la dottoressa Scicchitano. Allora, grazie. Allora, io presento Erminia Scicchitano, architetto che lavora alla Direzione Generale per la Valorizzazione e si occupa al Consiglio d'Europa delle problematiche relative appunto alla Convenzione Europea di Faro. È importante questo suo intervento perché le comunità patrimoniali, qualcuno parla anche di comunità virtuali, che vengono identificate attraverso la Convenzione di Faro del 2005. Faro è un paese portoghese appunto in cui è stata ratificata e adottata, diciamo così, dal Consiglio d'Europa questa convenzione. È importante nell'ambito appunto delle discussioni che noi abbiamo fatto appunto proprio sul concetto di comunità, insomma. Quindi vediamo anche le novità che Erminia ci può dare rispetto alla ratifica europea e alla ratifica italiana della Convenzione di Faro. Grazie. Allora, innanzitutto vi ringrazio per essere venuti, vedo che evidentemente l'argomento è interesse, senz'altro un argomento nuovo. Io purtroppo non so voi nel corso, in precedenza, quanto e come avevate affrontato specificatamente il tema della convenzione, per cui sono partita anche da un quadro che traccia le linee della storia della sua redazione. Sarò, spero, molto, molto rapida, andando al cuore dei punti fondamentali, dei punti principali. Innanzitutto lo inquadro questo è il quadro delle convenzioni internazionali che riguardano il patrimonio culturale. Divise, noi abbiamo la nostra legislazione nazionale, poi abbiamo le convenzioni europee, le convenzioni internazionali e alcuni altri cosiddetti strumenti di soft law. Perché? Perché stiamo parlando in questo caso di una convenzione europea, cioè di una convenzione che è stata stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa. Europa è un termine, quale Europa? Qual è il confine dell'Europa di cui stiamo parlando? L'Europa ha 47 paesi del Consiglio d'Europa, ovvero di quella organizzazione che è stata costituita prima dell'Unione Europea, nel quadro del tema della costituzione di una cittadinanza comune fondata sul diritto umano. E quindi è per questo che in questo quadro che si inseriscono le attività in ambito di patrimonio culturale, ovvero non sono attività che riguardano il patrimonio culturale in sé, quindi attività di tipo tecnico, sono attività che sono sempre collegate alla valorizzazione, promozione, salvaguardia del patrimonio culturale nel quadro di una partecipazione attiva del cittadino alla vita culturale. Perché questo quadro? Perché la cosa che si è registrata molto, molto interessante è che nel 2000 c'è stato un cambiamento di rotta rispetto a come sono state impostate questo genere di convenzioni. Qui ho portato alcune due o tre immagini divertenti di una grande provocazione che ha fatto Rem Koolhaas, che è un architetto olandese, che non so se conoscete, una provocazione molto forte alla scorsa Biennale di Venezia, e per chi non lo conosce stiamo parlando dell'architetto che ha preso il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia nella scorsa edizione, quindi una provocazione che è stata raccolta ovunque tranne che in Italia, nonostante fosse pienamente incentrata sul tema della preservation, della politica della preservation. Era molto molto forte il padiglione Italia, molto molto forte questo suo intervento, lo chiama cronocaos, divertente anche il tema che mette lavora sul tempo. E guardate quell'immagine in cui abbiamo, lui lo chiama, questo cartellino piccolo, riportato la scritta più grande perché non poteva leggersi bene, Damasco, maggio 2010 usato, Damasco, maggio 2010 restaurato, ovvero la preservation, la politica di conservazione del patrimonio culturale, non provoca un impatto che probabilmente è quello di sganciare completamente il luogo dal suo vero uso originario e quindi di conseguenza dalla collettività che lo ha sempre usato, dai soggetti che l'hanno sempre utilizzato. Quindi fortemente provocatorio. Fa anche un'altra riflessione e dice: dal 1882 ad oggi le leggi, le normative, le convenzioni sul patrimonio culturale hanno teso a circoscrivere un oggetto, far entrare quell'oggetto nella categoria patrimonio culturale e poi definire in che modo questo oggetto viene conservato, preservato, sempre partendo poi dal suo approccio polemico, che cosa vuol dire preservare. Come vedete, nel 1882 la frontiera di ciò che si conservava era da un anno molto lontano nel tempo. Questo intervallo, piano piano, mano a mano che andiamo avanti, si avvicina a noi. Nel 1913 arriviamo al 1712, 1953, 2007. Oggi che facciamo? Ci sono edifici di architettura contemporanea che immediatamente dopo essere stati costruiti vengono tutelati e considerati patrimonio nazionale. A questo punto, fino a che punto possiamo allargare questa macchia della conservazione? Tema che viene dibattuto fortemente in sede UNESCO, cioè anche lì ci si chiede: ma quanti siti potranno essere dichiarati di valore eccezionale, valore mondiale? A un certo punto questa rete andrà a coprire l'intera terra. E qui sempre la provocazione. Dice: non sarà che accanto alla convenzione UNESCO per la protezione del World Cultural and Natural Heritage dobbiamo fare la convenzione sulla demolizione del World Cultural Junk, della monnezza, e fa accanto ai criteria for the assessment of standing universal value, di cui avrete sicuramente parlato, lui fa i criteri per l'assessment dell'insignificant universal junk, che ovviamente era una provocazione, ma con un fondo di verità. Cosa accade quindi intorno al 2000? Fino a quel momento ci si concentra appunto su convenzioni, su legge, su normative nazionali che definiscono un oggetto, lo perimetrano e poi dicono: io in questo modo questo oggetto lo vado a conservare. Era un atteggiamento che considera quasi sempre esterne le cause del danneggiamento del patrimonio culturale. C'è un qualcosa di esterno, non è un caso che, se ricordate, negli anni 80 il grande, grande pericolo era l'inquinamento, ma sempre quasi dimenticandosi che l'inquinamento è un qualcosa che è di origine antropica. Con l'aumento della consapevolezza che in realtà i rischi a cui è soggetto il patrimonio culturale sono tutti, quasi tutti, di origine antropica, se andiamo a escludere forse i grandi terremoti, i grandi eventi, le grandi calamità naturali, il resto è tutto di origine antropica: la pressione turistica, la questione dell'impatto dell'eolico sul paesaggio, il problema dell'approvvigionamento energetico delle grandi centrali. E poi succede qualcosa, succede alle porte di casa nostra il conflitto balcanico, lo abbiamo alle porte di casa, e succedono alcuni eventi che anche lì fanno riflettere. Nel 1993 viene demolito il ponte di Mostar, che non è affatto un obiettivo militare, perché sul ponte di Mostar non sarebbe passato nessuna truppa. Viene demolito il ponte di Mostar in quanto era un portatore di un fortissimo valore identitario, perché era stato costruito dalle due comunità sulle due rive in collaborazione, quindi ordinata la costruzione da Soleimano il Magnifico, un ponte della metà del 1500, costruito dalle due comunità, e quindi aveva un senso perché era il luogo dell'incontro, l'incontro fra le due collettività, e peraltro per allora era uno dei punti più importanti e più grandi dell'antichità. Sembra che l'architetto fosse stato, se non viene giù il ponte, gli era stata promessa ovviamente la morte. Lui aveva già preparato la tomba, era pronto, quando ha disarmato. Sì, in vicinanza ha detto: sono pronto, non so se ce la posso fare. Invece per fortuna è andato bene e purtroppo siamo dovuti arrivare un po' più in là. La ricostruzione ha coinvolto fortemente la cooperazione italiana, e nella ricostruzione in realtà si è ricostruito il dialogo e il rapporto fra le due comunità. E la cosa interessante è che la ricostruzione è stata fatta coinvolgendo assumendo gli operai in parti uguali da una comunità dall'altra, proprio per creare questo senso. Quindi in quegli anni, alla fine, agli inizi, intorno agli anni 2000, matura un'altra consapevolezza, che probabilmente appunto la questione identitaria è una delle forti, delle molle più forti, che incide sia sul danneggiamento del patrimonio culturale, ma a sua volta, guardando il rovescio della medaglia, lavorare sul tema dell'identità potrebbe essere un grosso fattore per la sua conservazione. Ovvero promuovere la consapevolezza da parte dei cittadini del valore del patrimonio culturale è una molla, è una forza per la sua stessa conservazione. Nasce quindi la Convenzione Europea del Paesaggio, che nella sua definizione europea, che è stata quasi completamente integrata nella normativa italiana, come vedete il paesaggio non è più un luogo, non è più un qualcosa di definibile e perimetrabile con una riga. La prima concezione che avevamo avuto di paesaggio, quella degli inizi del Novecento, era di una bellezza d'insieme di carattere estetico. La seconda considerazione è quella naturale, quella di naturalistica che porta Galasso, quindi nel 1985, ovvero le cime delle montagne sopra 1200 metri, qualcosa ancora di perimetrabile, i bordi dei fiumi per 150 metri, perimetrabile. La definizione della Convenzione sposta completamente l'accento e dice il problema non è più perimetrare, il problema è un altro, il problema è il tema del valore e il tema dell'identità. E questo argomento viene recepito nel codice dei beni culturali e crea ancora oggi grandi difficoltà. Ci sono regioni che cercano di perimetrare i beni identitari paesaggistici. E questo è vero che è un'azione che è necessario fare, ma allo stesso tempo è quasi non aver compreso qual è lo spirito. Il passaggio successivo, quindi, è questo, cioè si passa da chiedersi come preservare il patrimonio e secondo quale procedura, a perché e per chi, cioè riportare l'attenzione sull'uomo. Nel 2005, quindi, proprio come conseguenza della guerra balcanica, c'è un mandato del Comitato Direttore del Patrimonio Culturale a costituire un gruppo di lavoro e a creare un quadro normativo sul patrimonio culturale che tenga in considerazione questi aspetti. Nasce quindi la Convenzione di Faro, la Convenzione Quadro sul valore dell'eredità culturale per la società, che si incentra innanzitutto sul tema del diritto all'eredità culturale come facoltà come diritto del cittadino a partecipare al patrimonio culturale, con una diretta riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. Su questo tema ancora difficile innestare veramente questo diritto al patrimonio culturale nel diritto a partecipare alla cultura. È un processo che ancora non è ben metabolizzato, è stata realizzata proprio ora, è stata consegnata da pochi giorni una mappatura dei diritti culturali in seno al Consiglio d'Europa. È un tema molto interessante anche da studiare. Ad ogni modo la Convenzione, infatti, l'articolo primo sancisce immediatamente nel riconoscimento, si incentra sul riconoscimento del diritto a partecipare alla vita culturale, diritto al quale consegue immediatamente, come altra faccia della medaglia, una responsabilità del cittadino a prendersi carico, a prendersi cura del patrimonio culturale. Una responsabilità che sia individuale che collettiva. Un altro tema molto interessante è che tramite la Convenzione di Faro si apre una riflessione su un concetto di valorizzazione, di valore che non è un valore semplicemente economico, ma un valore nel quadro del concetto dello sviluppo sostenibile, in quanto la Convenzione lavora sul tema dell'integrazione delle varie dimensioni dello sviluppo. Il testo, proprio vista l'origine, è un testo che evita qualunque riferimento a culture o patrimonio materialmente definito. forse per noi in Italia è più facile accettare questo concetto che il patrimonio culturale ha diverse origini. Abbiamo avuto nella storia italiana, abbiamo un patrimonio culturale che spesso è il risultato del dialogo fra le culture. In altre situazioni, come abbiamo appena visto, una moschea può essere considerata un luogo rifiutato da una delle due collettività. E quindi questa definizione è una definizione molto ampia, molto, molto generale, cosa che attualmente nella fase di realizzazione del dossier per la firma da parte italiana, che era stata molto attiva al momento della firma della convenzione da parte degli Stati, e poi ci si fermò purtroppo in questa procedura, quindi noi nel 2005 non abbiamo firmato la convenzione. Abbiamo ripreso adesso in mano il dossier, proprio perché come Direzione Generale per la Valorizzazione ci interessa aprire la finestra su quali sono tutte le dimensioni della valorizzazione, oltre a quella economica. E questa è una definizione che, come sa bene la mia collega, ha gestato dei grandissimi problemi. Problemi perché in questa definizione si intravede un qualcosa che va al di là della materia. Va al di là della materia, e quindi si è generato il timore che si volesse tutelare il patrimonio immateriale, questione assolutamente irrisolta nel nostro paese. Comunque per ora si è trovata per fortuna una soluzione. Comunque si vede, la definizione, eccola, un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso e espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni. Ad oggi mi è impossibile, rispetto a questa definizione, dire se questo oggetto è o meno un oggetto di eredità culturale se qualcuno non mi sostiene questa definizione. Cioè senza l'uomo, senza l'essere umano, senza la comunità, io non sono in grado di definire questo, se si tratta di un patrimonio culturale. Un altro tema anche qui importante è di approfittare, di utilizzare il patrimonio culturale come argomento per sviluppare il dialogo e il dibattito democratico e l'apertura tra le culture. A partire dalla Convenzione di Faro sono stati sviluppati alcuni progetti, cioè c'è una conseguenza pratica e concreta di questo principio, non è solo un principio che è rimasto su carta. Negli ultimi 5 anni ci sono i progetti di assistenza tecnica proprio nei Balcani, e non è un caso che tutti i paesi dei Balcani abbiano firmato la Convenzione subito. E dei progetti di ricostruzione, di restauro del patrimonio culturale che hanno effettivamente contribuito alla pacificazione delle comunità, al riavvicinamento, al dialogo. Kosovo, ci sono moltissimi esempi. Macedonia. Non è un concetto che non avessimo anche noi già formulato, perché, come dire, se guardiamo agli atti della Convenzione Franceschini, in qualche modo questo tema era già stato, come dire, lo abbiamo in nuce nel nostro codice, no? Il riconoscere al patrimonio storico, archeologico e artistico un preminente valore di civiltà assoluto, universale e non transeunte. E poi il tema della consapevolezza, quindi la coscienza dei valori deve essere presente a ciascun cittadino come elemento della sua educazione civica, come dovere umano. Cioè nel 1967 a questo punto di riflessione eravamo arrivati, però forse non così avanti. Nella Convenzione l'articolo 2 stabilisce quindi, proprio perché è impossibile definire cosa è patrimonio culturale, se no io non ho dall'altra parte la comunità o il soggetto che è il soggetto che identifica i valori nel patrimonio culturale, all'articolo 2 definisco quella che non chiamiamo comunità patrimoniale, ma comunità di eredità. E questo è una novità che è degli ultimi giorni e che deriva dal fatto che si è raggiunto un accordo fra l'Italia e il Consiglio d'Europa per la firma della Convenzione di Faro, a patto di non utilizzare le stesse edizioni che sono contenute nel Codice dei Beni Culturali, perché la definizione di patrimonio culturale contenuta del Codice viene considerata un insieme, un sottoinsieme della definizione che è contenuta nella Convenzione di Faro. Per questo motivo abbiamo adottato anche un piccolo stratagemma di cambiare nella traduzione italiana e quindi non utilizzare patrimonio culturale ma utilizzare eredità culturale e utilizzare comunità di eredità. Forse possiamo ancora migliorarla nei prossimi giorni questa. Anzi, probabilmente il vostro aiuto potrebbe essere anche identificare un termine più adeguato, quindi una traduzione letterale dall'inglese praticamente. Ad ogni modo la comunità di eredità viene definita anche qui così, in maniera molto generale, costituita da persone che attribuiscono valore agli aspetti specifici dell'eredità culturale e che si augurano possano nel quadro di un'azione pubblica essere sostenuti e trasmessi alle generazioni future. Ora, la definizione di comunità di eredità non è presente nel codice dei beni culturali nel paesaggio, ma siccome la Convenzione prevede che il valore dell'eredità culturale sia sostenuto e trasmesso alle generazioni future nell'ambito di un'azione pubblica, allora il primo passo è stato quello di individuare qual è il quadro in cui ci andremo a muovere nel prossimo futuro, non appena sarà firmata la Convenzione. Il primo quadro individuato è il quadro di riferimento in cui le regioni, le province e l'amministrazione statale si devono attenere nel disciplinare i rapporti con le associazioni di volontariato, perché in qualche modo sono associazioni che sono costituite secondo un quadro normativo che in Italia si è sviluppato a partire dal 91. Non vi annoio, ma insomma questo è il quadro principale, comunque poi vi lascerò la presentazione se può esservi utile, che va dalla legge quadro sul volontariato, che disciplina comunque il tema, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, che ha istituito gli appositi registri, la disciplina delle associazioni di promozione sociale del 2000, che anche qui è generale. La cosa curiosa è che in questo campo l'attività nel campo dei beni culturali viene specificamente esplicitata solamente nel decreto legislativo che parla del che si occupa di questioni fiscali, come sapete, cioè l'attività del campo dei beni culturali è privilegiata ai fini fiscali nella definizione dell'organizzazione delle ONLUS. Quindi in questa definizione, se organizzazioni che prevedono nel loro statuto lo svolgimento di attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico-storico, quindi con una dizione ancora un po' superata e con la curiosa, io ancora non ho compreso il perché, tutela che non dovrebbe assolutamente essere competenza di. Però a fini fiscali io devo scrivere nel mio statuto. Io per esempio ho lavorato all'Istituto dell'Associazione Amici del Maxi e abbiamo dovuto scrivere che l'associazione si occupava di tutela, se no non danno poi l'esenzione fiscale. Svolgimento di attività di tutela, però essendo decreto legislativo siamo a livello inferiore, quindi certo non conferiamo la tutela al 91, anche qui c'è un protocollo d'intesa fra il Ministero dei Beni Culturali e l'Associazione per il Volontariato, dove si stabilisce che il Ministero può avvalersi. Fu un momento di grande forza, di grande io ricordo, l'avevo vissuto perché per puro caso lavoravo al MOVI, per cui mi ricordo bene quel momento di definizione proprio del quadro. E il Ministero, c'era stato fino a quel momento invece una grossa, non c'era grande sinergia fra l'associazione di volontariato e il Ministero, anzi si percepiva questo tipo di attività come attività dilettantesca, veniva considerata non utile. Ancora oggi diciamo che la situazione non è omogenea. Adesso si è stabilito che si può costituire un rapporto attraverso una convenzione non onerosa, e comunque il tema dell'utilizzo dei volontari è stato più volte richiamato nell'atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici, sugli standard per il funzionamento dei musei. Qui c'è un qualche, va bene, un problema nel passaggio. Il nuovo codice invece recepisce ancora meglio questo tema, tanto che noi purtroppo vedo che c'è stato un pasticcio, scusate, ma se no non capite. anche un comando di... Sì, perché questo è Open Office. Sì. Eccolo qua. Ok. Come faccio a rifare la presentazione? Visualizza presentazione? Vabbè. Eccola qua, nell'articolo 6 stiamo parlando, nell'articolo 6,3 c'è proprio la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli, associati alla valorizzazione del patrimonio culturale. Allora, tutela no, ma valorizzazione sì. E come sapete sul tema della valorizzazione c'è cioè una progressiva crescita sul tema della definizione di cosa sia esattamente la valorizzazione. Addirittura l'articolo 112 si sancisce che possono essere scritti degli accordi per regolare servizi strumentali, quindi comuni, destinati alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali anche con l'associazione culturale o di volontariato. Quindi adesso c'è anche un quadro normativo. Ovviamente devono avere nello statuto la finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, ma un po' va a sanare cose che venivano già fatte. L'esperienza di cui non troverete nulla, che invece vi racconto qui, è che in ambito di Consiglio d'Europa abbiamo costituito un piccolo gruppo di lavoro nell'attesa dell'entrata in vigore della Convenzione di Faro, che entra in vigore il 1 giugno, in quanto il 10° Stato ha firmato e ratificato alla fine dell'anno scorso. Abbiamo costituito un piccolo gruppo di lavoro a partire per il monitoraggio della Convenzione di Granada sulla protezione del patrimonio architettonico, che andava comunque aggiornata. Il gruppo di lavoro ha lavorato a partire da quella convenzione, integrandola con i concetti più innovativi, i concetti più importanti della Convenzione di Faro, e abbiamo creato una struttura di caso, di moduli di casi studio. E qui siamo stati quindi costretti a entrare un po' più nel merito delle definizioni di questa entità di comunità patrimoniale, perché potete capire che la definizione che viene data nell'articolo è veramente generica. Abbiamo messo in piedi 4 moduli su quelle che sono le tematiche più innovative. Cioè il primo nodo è il tema di quali sono i valori che vengono riconosciuti nel patrimonio culturale. Anche quello non è facile, perché il valore che tradizionalmente veniva riconosciuto era un valore che l'esperto, lo storico dell'arte, l'architetto che lavora all'interno della pubblica amministrazione, funzionario dei beni culturali, identifica, fa una relazione e da lì discende il processo della tutela e lo Stato dichiara che quell'oggetto è bene culturale. Ora, i valori che sono i valori di una comunità potrebbero essere diversi dai valori che invece va a cercare, diciamo, il funzionario dei beni culturali. Quindi questo è stato un primo tema su cui ci siamo interrogati. Il secondo tema è chi sono gli attori che giocano attualmente un ruolo nell'identificazione e nel sostegno, nel supporto al patrimonio culturale. L'altro tema è anche quali sono le competenze, quale tipo di formazione deve essere a disposizione o bisognerebbe mettere in atto per l'identificazione dei valori del patrimonio culturale. E poi il quarto modulo, che è un altro tema interessante, molto, molto contemporaneo, che però ancora appunto non si tratta poco a livello in maniera sistematica, e quindi è il tema delle tensioni che ci sono fra la conservazione degli edifici e i regolamenti che devono assicurare altri obiettivi pubblici. Vi faccio l'esempio: accesso negli edifici storici per gli handicappati. Cioè, sono due interessi pubblici che entrano in conflitto. O lì anche tensioni, immaginiamo quello che è successo all'Aquila, cioè fra l'istanza di conservazione del patrimonio culturale e i cittadini che ovviamente vivono delle situazioni per cui vedono le cose in maniera diversa da quello che vede l'esperto. La consapevolezza alla base era questa, quella che abbiamo, che è emerso. Dallo studio è venuto fuori una importante e interessante bibliografia di riflessione sulle comunità patrimoniali che vi posso dare, incentrata proprio sul tema che il patrimonio culturale è responsabilità quindi non solo delle istituzioni governative ma anche dei gruppi di interesse a vario livello. Lo scopo ultimo della conservazione non è tanto quello di conservare la materia, e che questo non lo potrò mai dire ai colleghi del Ministero, ma quello di mantenere i valori che sono incarnati nel patrimonio culturale. Questo è interessante perché è una gerarchia. Perché per definire quali sono le comunità è interessante capire anche fino a che livello i soggetti sono coinvolti in questa operazione, che è sia quella del riconoscimento del patrimonio culturale che quello poi della sua protezione, perché verranno a farsi carico anche della sua protezione in qualche modo. E mettiamo anche tutto questo processo nel quadro della devoluzione, che non è un fenomeno che sta accadendo solamente in Italia, ma sta accadendo in tutta Europa, quindi della progressiva devoluzione delle competenze agli enti locali. Ma se io devolvo le competenze che sono competenze di tutela e di protezione e non lavoro anche sulla consapevolezza, corro il rischio che gli interessi quelli più prossimi, quindi quelli più economici eccetera, prendano il sopravvento e non si riesca più poi a preservare quelli che sono valori della collettività, che era il ruolo che ha assunto finora lo Stato. Questo è interessante, che c'è una scala graduata sul livello di coinvolgimento, di engagement, di impegno delle comunità, che parte dal basso. Vedete il livello più basso è quello della semplice informazione, cioè io ti informo che c'è che è un po' forse il livello in cui siamo ancora noi, cioè un oggetto è bene culturale, tu sei la comunità, io ti informo, metto un cartello e dico guardate questo edificio è patrimonio culturale. Il secondo livello è quello della consultazione. Poi cominciamo a lavorare sul tema del planning, cioè della pianificazione che viene fatta come passo successivo della consultazione, e qui vedete passiamo all'impegno, al commitment della comunità, fino a prendere parte alle decisioni e fino ad assumere anche un'attività di tipo indipendente, quindi c'è una gradualità nell'ascesa arrivando a essere in grado, come dire, di sostenere il proprio patrimonio culturale. Quindi questo è il livello più basso, è l'access, l'accesso, che è un po' quello su cui ancora si sta lavorando. Quindi dire, io ancora oggi il concetto di valorizzazione del codice parla di fruizione. La fruizione è un'attività passiva. Allora già dobbiamo lavorare su questo, che ancora va bene messo a punto, perché comunque gli strumenti di comunicazione non sono multi direzionati al più vasto genere di utenza. Attualmente i musei sono fatti per persone che hanno lauree specialistiche sulla materia e possibilmente anche un dottorato esattamente sull'argomento della mostra. E quindi già su questo stiamo lavorando, ma oltre, ecco, mano a mano passiamo un atteggiamento che da passivo diventa sempre più attivo, fino ad arrivare ad essere in grado, la collettività che sia in grado di sostenere il patrimonio culturale. E qui vedete che anche qui c'è una gradualità nelle azioni che vengono svolte dalla comunità nel passaggio. Innanzitutto abbiamo il passaggio dell'identificazione, quindi la nomination per la protezione, fino ad arrivare alla partecipazione nelle decisioni che vengono prese sul patrimonio. Questo un'altra. Allora, qui abbiamo fatto un elenco di quali possibili comunità, heritage communities, possiamo intravedere. Quindi andiamo molto al di là della definizione che ho dato prima, del quadro che ho dato prima, che riguarda l'associazione di volontariato, ma perché noi in Italia forse alcuni temi li abbiamo meno, sono meno pressanti, ma quando la vediamo a livello europeo vanno trattati. Non so, oltre alle organizzazioni internazionali abbiamo le organizzazioni, vedete, che si occupano delle minoranze, c'è il tema delle diaspore che mantengono un legame con il patrimonio del loro, di origine. A voi vengono sicuramente in mente molti esempi. Ci sono i non national, che hanno un interesse culturale nel patrimonio cosiddetto orfano. Ci sono, per esempio, worshipper, sono i fedeli, i credenti, no? Credenti che quindi riconoscono un valore in un tipo particolare di patrimonio culturale. Ci sono gli advisory group o i gruppi di interesse, di consulenza, eccetera. Ci sono i residenti che abitano nel patrimonio storico. Ci sono persone le cui vite culturali sono legate a un certo tipo di patrimonio. Ci sono le persone la cui vita ancora in maniera forse meno forte, ma che comunque è legata al patrimonio, cioè anche oltre ai residenti locali, al commercio. E poi le organizzazioni di società civile. E comunque tutto questo è ancora da declinare, non c'è. Per esempio aggiungiamo le comunità scientifiche, è tutto da declinare. Le comunità scientifiche sono inserite, credo, negli advisory groups, secondo me. È una categoria più generale. Ora, ovviamente qui ci sono alcune domande irrisolte, nessuno di noi è sicuro che questo processo sia un processo che genera, cioè speriamo, pensiamo, spieghiamo che generi processi positivi, ma voi mi insegnate sicuramente che non è assolutamente detto, perché puntare troppo sul localismo, puntare troppo sul particolarismo può creare sicuramente dei problemi. Quindi siamo sicuri che otterremo dei risultati positivi? È una domanda da porsi. Come si correla questo concetto col tema, da un lato, multiculturalismo e consenso, e il tema cultura nazionale e culture minoritarie? Qui c'è una forte urgenza, una forte importanza di affrontare questo approccio, del motivo per cui io subito, non appena sono entrata in contatto con questo tema, ho coinvolto la dottoressa Mariotti, perché questa convenzione non si può affrontare con il classico tradizionale approccio dell'architetto, dello storico dell'arte con la sua formazione. C'è bisogno di un approccio multidisciplinare. E poi come incoraggiare la partecipazione della comunità, altro esercizio in cui noi siamo a zero in Italia. Il tema della partecipazione, quando va bene, è una partecipazione guidata in processi di sviluppo urbanistico in cui si cerca di portare gli abitanti a dire di sì a un progetto che è già stato pensato nelle menti di qualcuno. Esempi come quelli anglosassoni io ne ho visti finora pochi. Ora, eppure in Italia c'è una potenzialità molto molto grande in questo settore. 2001 censite 2585 organizzazioni di volontariato, allora il 37% era nel settore cultura. Nel 2003 un altro censimento porta addirittura a 6391, cioè una crescita esponenziale. Ovviamente è una crescita anche su altri settori, per cui la percentuale nel settore cultura non cresce con la stessa proporzione. Stiamo parlando di 259.963 che si occupano, fanno visite guidate, si occupano di custodia, di conservazione, di varie attività. Quindi c'è un esercito di persone in Italia che si occupa del patrimonio culturale concretamente. Qui vedete alcuni marchi, alcuni brand di alcune organizzazioni che conoscete molto bene e che sappiamo che sono attive da tanti anni. Questo è un grafico che marca le date di nascita delle principali organizzazioni, e come vedete andiamo dal Touring Club, che è quello che ha data più antica, FAI, eccoci qua, nei periodi delle grandi speculazioni edilizie degli anni 60, no? Vedono l'esplosione di queste associazioni, ma comunque c'è una crescita continua e progressiva. Questo è un esempio, l'unico esempio che c'è al momento di comunità, nonostante anche tutte le altre organizzazioni potrebbero definirsi tranquillamente come comunità patrimoniali, perché ne hanno le caratteristiche, anche e soprattutto perché abbiamo visto che la definizione non è così stringente. Questa è l'unica comunità patrimoniale, che adesso dobbiamo chiamare comunità di eredità, che si definisce come tale, che fa un esplicito riferimento alla Convenzione di Faro. E l'altro tema interessante è che sta utilizzando i social network, cioè sta creando una rete di persone che ora è arrivata a 1500 aderenti a Venezia. Potete immaginare come gli abitanti di Venezia, questo è un gruppo poi di architetti 40, perché sono tutti quarantenni, una generazione di quarantenni di architetti che praticamente hanno a cuore la propria città, hanno a cuore tutte le tematiche che comporta la pressione turistica ovviamente sullo sviluppo, e quindi fanno da gruppo di pressione. È un gruppo di pressione che ha sempre a mente l'interesse, la conservazione dell'interesse, la salvaguardia dell'interesse collettivo nelle operazioni di trasformazione urbanistica della città. Quindi coinvolgono, diffondono le notizie e promuovono manifesti, e fanno anche altre attività carine che sono le passeggiate patrimoniali, quindi chiamano le persone a fare queste passeggiate per una migliore conoscenza del patrimonio culturale. Vedete, sono argomenti in corso, l'urbanistica ci riguarda, anche molto accessibili, non molto tecniche. Questa la saltiamo, questa è una conclusione che è un po' la conclusione del mondo dei sogni, che è quella che sembra quasi, abbiamo detto, forse non è così, non siamo affatto sicuri che questo processo sia un processo che ci porti verso dei risultati positivi, però questo è quello che speriamo, che la firma della convenzione migliori la consapevolezza da parte dei cittadini del valore del patrimonio culturale diciamo in un ambito multidimensionale, ovvero che esistono molte accezioni di valore che non sono solo quella del valore economico o monetario, ma che sono le altre dimensioni del valore che ci interessano. Spegnere, credo, se si riesce a spegnere, se no sto facendo l'interrogatorio della polizia, sono innocente, vi assicuro. Forse è anche meglio spegnere il sì. Io innanzitutto vi ringrazio per avermi voluto in questo vostro incontro, mi fa veramente molto piacere. Mi presento, perché credo che dal programma si capisca fino a un certo punto. Io lavoro al Ministero per i Beni Culturali, come peraltro le due relatrici della giornata, perché in realtà io non sono relatore, sono venuto per un saluto, fra virgolette, amichevole istituzionale in questo incontro. Istituzionale per il mio ruolo, perché attualmente sono il direttore del servizio valorizzazione della Direzione per la valorizzazione del patrimonio culturale, ma da tanti anni mi occupo anche delle convenzioni UNESCO, innanzitutto della convenzione del 1972, quella del patrimonio culturale e naturale, quella che porta all'iscrizione di beni che possiamo considerare fra virgolette tangibili. E da qualche anno, in maniera defilata, perché la vera protagonista è la dottoressa Mariotti, mi occupo anche dell'attività connessa con la Convenzione del Patrimonio Immateriale, in quanto responsabile scientifico dell'ufficio, non certamente della materia, perché sono architetto, quindi mi guarderei bene di entrare nello specifico della materia del patrimonio immateriale, perché dopo un primissimo approccio, quando questa convenzione è stata portata sul tavolo del nostro ufficio, pensavo di poterla gestire con la stessa disinvoltura con la quale gestiamo l'altra. In realtà mi sono reso conto dopo poche ore, forse addirittura dopo pochi minuti, che naturalmente era una pretesa incredibile. Ogni professione ha la sua specificità e gli antropologi ne hanno una molto, molto netta, molto chiara, molto precisa, ed è giusto che facciano il loro lavoro. Devo dire che dall'attuazione delle convenzioni internazionali noi riteniamo di trarre alcuni benefici. Noi, intendo dire noi come Ministero per i Beni e le Attività Culturali, perché ci sono soggetti che immaginano di trarre benefici diversi da quelli nostri. La lunga esperienza dell'iscrizione dei siti nella lista del patrimonio culturale ci ha condotto ad utilizzare questo strumento soprattutto come uno strumento per incrementare la tutela e quindi di conseguenza anche la conservazione dei nostri beni che iscriviamo nella lista del patrimonio mondiale. In realtà, come vi dicevo, per quella lista, così come anche per questa del patrimonio immateriale, la corsa all'iscrizione è abbastanza evidente e sentita. In genere chi promuove l'iscrizione alla lista del patrimonio mondiale è un amministratore locale, diciamo sindaci, amministratori provinciali, diciamo fra virgolette politici, i quali ritengono anche legittimamente, per carità, di trarre dall'iscrizione alla lista del patrimonio mondiale dei benefici, in alcuni casi diciamo squisitamente materiali, una promozione del turismo che naturalmente è una promozione dello sviluppo socio-economico, per carità, in linea assoluta niente di male. Alcuni, diciamocelo pure, ne traggono un'immagine personale, cioè il fatto di arrivare con la medaglietta del patrimonio mondiale prima delle elezioni certamente comporta qualche elemento di vantaggio rispetto a qualche eventuale avversario. In realtà il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha obiettivi diversi. Qualche volta mi chiedono, dice, ma com'è che l'Italia continua a scrivere beni nella lista del patrimonio mondiale? Beh, io in realtà dico che finché siamo in condizione di rispettare quelli che sono i criteri della lista del patrimonio mondiale, cioè quella di presentare dei beni che rappresentino una tappa importante nella storia dell'umanità, come esempi, come prototipi, come esemplari unici, qualche volta, anche se molto raramente, lo faremo, e lo faremo senz'altro con l'obiettivo di condividere con il resto dell'umanità questo nostro patrimonio, perché l'iscrizione nella lista del patrimonio mondiale vuol dire condividere con l'umanità un patrimonio che va conservato e tutelato per le future generazioni. Questo è l'obiettivo di questa convenzione. E la lunghissima preparazione dei dossier di candidatura a cui si deve accompagnare per il patrimonio culturale un piano di gestione, nel corso degli anni, io devo dire sono 17 anni che me ne occupo veramente tanto, nel corso degli anni è stata sempre più perfezionata, soprattutto nell'ottica di portare gli amministratori locali verso obiettivi di tutela e conservazione che noi come Ministero dei Beni Culturali difficilmente potremmo raggiungere con una condivisione così sentita se non fosse perché tutti condividono l'idea di avere questo importante, rilevantissimo riconoscimento internazionale. A fronte di questo riconoscimento internazionale siamo riusciti qualche volta, cosa incredibile per noi architetti, siamo riusciti persino a far cambiare dei piani regolatori, cosa che onestamente credo che in Italia sia un fatto abbastanza eccezionale, in vista soprattutto, cioè in vista esclusivamente della tutela del paesaggio. Quindi questo strumento è uno strumento che noi utilizziamo anche, devo dire, negli ultimi tempi, soprattutto ai fini della conservazione. Certo, poi c'è tutto il resto, l'aspetto sociale, l'immagine, che per carità va benissimo, ma per noi diventa soprattutto la parte della promozione turistica complementare, importante, perché poi sappiamo benissimo che è un bene che è vissuto naturalmente entro i limiti della sostenibilità, entro i limiti della sua capacità di carico, è un bene che poi continua a vivere. Però certo è un obiettivo non prioritario, un obiettivo collaterale. Quando abbiamo iniziato con la dottoressa Mariotti a ragionare su questa nuova convenzione, noi la prima cosa, almeno io che affrontavo il problema ex novo, non essendomi mai occupato, la prima cosa che abbiamo affrontato è stata la debolezza della nostra legislazione nei confronti del patrimonio immateriale. Il codice dei beni culturali, come voi sapete, si occupa di cose, perché da sempre il nostro patrimonio è fatto di cose, e anche qualche nostro tentativo modesto, tanto modesto che non ha avuto risultati, di intervenire nel momento in cui il codice si stava scrivendo, non ha avuto alcun risultato, sfortunatamente. Non c'erano tempi maturi, probabilmente non sono maturi nemmeno adesso. Noi sappiamo naturalmente che nel codice si tutela una parte limitata del patrimonio immateriale, che sono gli oggetti prodotti dagli eventi, dal saper fare tradizionale, dalle diverse manifestazioni di cultura popolare nel nostro territorio, ma sono solo oggetti che rispetto all'immensità dell'espressione immateriale sono una percentuale limitata. Non sarei in condizione di fare percentuali, sarebbe una follia, ma insomma diciamo certamente molto poco rispetto all'importanza degli eventi, delle manifestazioni, del saper fare tradizionale. Quindi purtroppo noi tuteliamo le cose, però in realtà, come nel corso degli anni ho imparato ad apprendere meglio, è ovvio che comunque non sarebbe possibile immaginare un vincolo sugli eventi, farebbe semplicemente ridere, accapponare la pelle. Non è un bene costituito da mattoni, pietre e legno, si tratta di un patrimonio vivente, il patrimonio vivente evidentemente non si vincola, sarebbe stato impensabile ed assurdo, ma noi abbiamo potuto vedere, come in tante altre legislazioni, in particolare quella giapponese, che è quella a cui facciamo più facilmente riferimento per l'attenzione che quel paese dedica al suo patrimonio immateriale. Il patrimonio immateriale è fortemente presente in quello che per loro è il codice dei beni culturali, fino ad averne assorbito un terzo della sua dimensione. Ovviamente lì non si parla di vincolo, tra l'altro i giapponesi non vincono nemmeno gli edifici, figuriamoci il patrimonio immateriale, ma non sarebbe possibile. Ma chiaramente si parla di sensibilizzazione delle popolazioni, di quella valorizzazione che si intende nel senso che lo stesso nostro codice definisce come promozione della conoscenza, come sensibilizzazione delle popolazioni. Quindi patrimonio lo possiamo tenere vivo, che non significa conservare, ma tenere vivo, perché sappiamo benissimo che il patrimonio immateriale si trasforma nel tempo, tenerlo vivo attraverso un aiuto, una promozione alla sua presenza sempre nella vita delle popolazioni, il che avviene in altri paesi anche pure facendo delle attività di carattere economico, pagando attività, iniziative, sostenendo scuole, sostenendo situazioni che danno a chi se ne occupa la possibilità di mandare avanti una tradizione che fa parte di un patrimonio identitario di una comunità. Quindi noi non abbiamo lo strumento normativo nella maniera più assoluta, però ecco che immaginiamo di poter sfruttare, così come stiamo facendo per l'altra convenzione. Noi italiani, lo dico perché in effetti siamo abbastanza orgogliosi, nella lista del patrimonio mondiale, del patrimonio culturale naturale, siamo primi nella classifica mondiale. E come vi dicevo, l'abbiamo utilizzata molto questa nostra posizione per lavorare molto dentro casa e molto meno per essere così prestigiosi a livello internazionale. Ecco, vorremmo tentare, se sarà possibile, di fare altrettanto con questa convenzione, perché ci siamo resi conto che già c'è una forte pressione da parte di tante amministrazioni per l'iscrizione di elementi, così si chiamano, come vi racconterà molto meglio di me la dottoressa Maiotti dopo, in questa lista del patrimonio intangibile. Questa pressione, come appunto succede per l'altra convenzione, probabilmente collegata a questioni, come dicevo, di prestigio o persino questioni alquanto più pericolose rispetto al patrimonio culturale, di promozione territoriale a livello turistico, cosa che ovviamente per il patrimonio immateriale crea un'ansia assai maggiore rispetto a quella che può essere l'impatto del turismo su un edificio. Se una espressione di una identità di una comunità diventa oggetto di visita turistica, si rischia di perdere il senso di questo patrimonio. Vabbè, questa è una parentesi. Detto questo, ecco, allora, questo fatto che susciti attenzione, che la gente parli, che addirittura si finisca sui giornali, è certamente un'occasione da sfruttare proprio nell'ottica di promuovere la conoscenza di questo patrimonio. L'etichetta dell'UNESCO ci potrà servire, ci serve già fin da adesso, per farne parlare, perché la gente lo sappia e soprattutto perché le comunità locali che in qualche modo vengono investite da questo processo di candidatura e ci auguriamo anche successivamente di iscrizione in questo elenco del patrimonio immateriale, abbia ancora di più il senso dell'appartenenza rispetto a un patrimonio, a un'identità che si è tramandata nei casi italiani spesso e volentieri per secoli. Quindi l'obiettivo del nostro lavoro non può che essere questo: utilizzare la convenzione del patrimonio immateriale per far sì che questo patrimonio sia sempre più sentito come un patrimonio identitario delle comunità. In alcuni casi è abbastanza superfluo, noi abbiamo delle situazioni che hanno delle manifestazioni così radicate nella vita della popolazione che sono, vive da 800, 700 anni, non hanno certo bisogno di questo elemento aggiuntivo per poter andare avanti per altrettanto tempo. Probabilmente in altri casi forse la situazione non è così positiva per quanto riguarda un futuro, probabilmente non imminente, altrimenti non sarebbero entrate nella lista, non potrebbero entrare nella lista degli elementi del patrimonio, perché una delle caratteristiche che devono avere questi beni è quella di dare una garanzia comunque a noi stessi che le presentiamo di una permanenza nel tempo. Però certamente aiuteranno queste iscrizioni a favorire questo senso di identità, a favorire queste comunità che spesso si impegnano per un anno intero per eventi che durano una giornata. Fra pochi giorni abbiamo i Ceri a Gubbio, dove siamo stati invitati, ma credo che non potremo andare, ma che sono uno degli esempi fra i più famosi e più importanti di questo tipo di iniziative, ma le tipologie di beni che andremo a presentare sono abbastanza variegate. Di questo appunto sentirete parlare adesso dalla dottoressa Mariotti. Io con questo concludo facendo anche un appello. Noi siamo pochissimi, un po' animati da buona volontà, ma decisamente pochissimi. E l'attenzione per queste convenzioni, come vi dicevo, è abbastanza ampia, le pressioni sono notevoli, noi non siamo in condizioni di governare il processo di iscrizione dalla A alla Z come ci piacerebbe. Il rischio di banalizzazione anche all'interno della lista degli elementi italiani è assai forte, e ripeto, noi non siamo in condizione all'interno del Ministero di fare fronte ad iniziative che vengono da altre amministrazioni che pure legittimamente avanzano le loro candidature. Un'associazione come la vostra e degli studiosi come siete voi certamente potranno svolgere, e mi auguro che lo facciano da ora e in futuro, un'azione di sorveglianza critica rispetto a quella che è l'attività dell'amministrazione pubblica. Amministrazione pubblica che può non sempre essere come dire, motivata da intenti così nobili come speriamo possano essere quelli che potrebbero motivare noi. Voi siete i detentori del know-how, probabilmente altri soggetti non sono in grado di valutare se quello che l'Italia presenta nella lista degli elementi del patrimonio immateriale merita di essere presentato oppure una sorta di promozione territoriale o promozione commerciale di altro genere. Le osservazioni che vengono da un'opinione pubblica disattenta sono abbastanza poco significative. Voi siete veramente gli osservatori privilegiati della nostra azione e quindi io sarei tanto lieto che la vostra associazione, le altre associazioni, tutti i soggetti che sono così attenti a questo nostro patrimonio facessero un'attività vigile, critica, anche magari parlando male di quello che facciamo in assoluto come amministrazione pubblica, spero non il mio ufficio del patrimonio mondiale, mi auguro di non sbagliare, questo dovrebbe arrivare preventivamente, sì ma preventivamente, però ben venga, cioè sono molto lieto perché l'obiettivo nostro è comunque, ahimè, difficilissimo da mantenere, ma è quello di restare sempre sul livello scientifico che sia il più inattaccabile possibile. E questo, ripeto, per noi è un obiettivo difficilmente raggiungibile se non abbiamo soggetti come voi che sono in condizione di discernere se quello che stiamo facendo è qualcosa di serio dal punto di vista della trasmissione, della conoscenza, della promozione di questo nostro patrimonio oppure semplicemente un fatto commerciale. Allora, io finisco con questo mio appello a una vostra presenza critica, vigile, costante, costruttiva, naturalmente la critica è, mi auguro, costruttiva nei nostri confronti, perché noi possiamo essere presenti in questa convenzione nel miglior modo possibile. Non possiamo intervenire su quello che fanno gli altri stati, devo dire che nella lista che più o meno si sta costruendo, io personalmente da architetto non mi esprimo, insomma qualche piccolo dubbio su quello che sta entrando mi viene. Parliamo di casa nostra, cerchiamo perlomeno noi di mantenere un livello che sia adeguato anche alla nostra tradizione di studi in questo settore. E con questo vi ringrazio. Dottoressa Mariotti, la conoscete probabilmente perché più di casa è antropologa. Da quanto sta il Ministero? Al ministero sono pochi anni, sono pochi 12 anni. Però so che il lavoro nei beni culturali sono molti di più. Non so se l'intervento. Sì, diamo una valutazione. La candidatura UNESCO patrimonio culturale immateriale presentata a Parigi il 31 marzo, marzo 2011. Grazie, io volevo ringraziare Pietro Clemente, appunto, che ci ha invitati, e voglio ringraziare Manuel, l'architetto Guido e l'architetto Sciacchitano, perché ci ha dato, Erminia ci ha dato un serio contributo a quello che potrà diventare la ratifica della Convenzione di Faro. Insomma, come vi ricordate, noi abbiamo parlato varie volte, insomma, del problema della comunità e quindi delle varie caratteristiche che all'interno della comunità si potevano identificare anche attraverso la comunità di Faro, che ormai è vicino appunto alla ratifica anche italiana, insomma. E come comunità patrimoniale anche queste comunità di eredità, insomma, che è stato, diciamo così, la scelta di una parola la meno, diciamo così, compromissoria rispetto all'articolo 7 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che assolutamente preclude l'esistenza di patrimonio intangibile all'interno del ministero. Però io sono un po' più positiva, diciamo così, di Erminia, perché lavorando sulle convenzioni, sugli elementi, diciamo così, del patrimonio intangibile che sono stati presentati in questo anno di lavoro italiano, mi sono resa conto che c'è una modifica all'interno delle sovrintendenze. Se meno di 10 anni fa, insomma, tutti mi chiedevano: ma che cos'è il patrimonio immateriale, ma che cos'è questa cosa, il patrimonio immateriale, insomma, ma noi abbiamo sempre avuto un'attenzione al patrimonio, ai beni culturali minori, no? E quindi, insomma, perché dobbiamo smettere questo interesse, guardare quello che c'è dietro ai beni culturali minori, insomma. Mentre invece oggi, diciamo così, non tutte chiaramente le sovrintendenze, perché a Matera per esempio abbiamo avuto un'esperienza negativa da questo punto di vista, però per esempio la sovrintendenza dei beni storici e artistici di Viareggio, di Lucca, la sovrintendenza dei beni storici e artistici di Siena, hanno dimostrato invece un atteggiamento diverso, cioè c'è quasi una ricerca, diciamo così, di capire meglio che cosa intendiamo per elementi del patrimonio intangibile o immateriale. Voi sapete, c'è questa caratteristica, cioè che il patrimonio la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile è stata ratificata in Italia come patrimonio immateriale, e devo dire che quello che si sospettava, che io sospettavo anni fa, prima della ratifica, sta avvenendo, nel senso che sempre di più, cioè man mano che passa il tempo, invece di diminuire, diciamo così, la confusione aumenta, perché il patrimonio immateriale, visto che noi ce l'abbiamo dal 1947 con il diritto d'autore, in realtà questa confusione tra patrimonio intangibile e patrimonio immateriale invece diventa sempre più presente, no? E quindi io mi trovo a dover dire no a certe candidature, a certe proposte di candidature, proprio perché sono soggette al diritto d'autore piuttosto che alla SIAE, eccetera, no? Come tempo fa appunto mi è stato richiesto, non per scritto ma solo per telefono, di candidare l'opera lirica, no? L'opera lirica sicuramente è immateriale, ma non può essere equiparata al patrimonio culturale intangibile della Convenzione del 2003. E quindi, insomma, siamo stati lì a spiegare un'in mezza mattinata appunto perché l'opera lirica, pur essendo immateriale, non poteva essere soggetta alla Convenzione UNESCO. Quindi, insomma, certo, sarebbe più facile se noi potessimo cambiare questa ratifica e chiamarla intangibile definitivamente piuttosto che immateriale, ma però credo che questo non sia più possibile, insomma. In ogni caso dobbiamo tener conto appunto di questo aspetto. Quello che io vi voglio presentare è appunto il lavoro che è stato svolto per candidare le proposte appunto che sono state avanzate da alcune comunità, ma anche comuni, anche regioni, anche province, soprattutto italiane, nella lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità, insomma, per la Convenzione del 2003. Questa convenzione, cioè lo spirito di questa convenzione, che porta, come dicevo prima Vincenzo Padiglione, appunto, porta ad una necessità di non poter pubblicare adesso niente di quello che riguarda le proposte di candidatura, insomma, cioè non ne possiamo parlare, cioè io posso dire quali sono state, ma più di quello non vi posso dire, perché il segretariato si è raccomandato in varie occasioni di tenere segrete, riservate appunto il processo di candidatura. Naturalmente per il 2011, al 31 marzo 2011, sono state candidate delle proposte che riguardavano prevalentemente, infatti questo è un dato che voglio dirvi subito, perché è una certa differenza, diciamo così, tra quelle che sono state presentate a Parigi il 31 marzo del 2011 a quelle invece che comincio a lavorare adesso per il 31 marzo 2012. Cioè, mentre quelle del 31 marzo 2011 sono state prevalentemente quelle che nella Convenzione del Patrimonio Intangibile si chiamano eventi festivi, no? Prevalentemente eventi festivi, quindi del tutto alieni da altre implicazioni che possono riguardare ad esempio il problema religioso, come invece abbiamo quest'anno. Cioè, quest'anno infatti c'è una maggioranza di elementi che hanno fatto la richiesta di candidature che hanno uno smaccato carattere religioso, si chiama dalle passioni di Cristo alla festa di Sant'Antonio Abate, alla Santa Croce della Val Camonica. Quindi ai battienti di Guardia San Framondi, quindi tutti elementi, diciamo così, che comportano un'indagine diversa, insomma, cioè non sono eventi festivi, sono pratiche cerimoniali che sono presenti nella Convenzione, ma che hanno un carattere religioso. E questo viene evidenziato soprattutto dal fatto che molto spesso sono i vescovadi o i parroci, per esempio l'immagine d'Accettura è stato presentato proprio dal parroco di Accettura, a farsi promotori, a sostenere l'elemento e quindi la futura candidatura. Ecco, questo è un aspetto che richiede appunto un'indagine e un'analisi diversa da quella dell'anno scorso, insomma, no? Perché appunto il problema religioso non è citato assolutamente all'interno della Convenzione, volutamente, perché chiaramente la gran parte appunto delle popolazioni degli stati che hanno ratificato sono musulmani, no? Una parte è cattolica, ma un'altra parte è, diciamo così, animista musulmana, cioè non si sa, per esempio tutta l'Africa, pochissimi sono gli stati che hanno diciamo così, una maggioranza cattolica, no? Anche se sembra incredibile, no? Ma la gran parte hanno una maggioranza protestante, e quindi insomma questa cosa ci richiederà, diciamo così, un atteggiamento anche diverso. Perché? Perché all'interno della Convenzione, oltre a definire, diciamo così, l'elemento, ci sono altre due caratteristiche che sono importanti da rispondere: sono il dialogo interculturale e le misure di salvaguardia. Il dialogo interculturale per una cerimonia religiosa, diciamo, mi preoccupa, perché insomma quale dialogo può stabilire l'immagine d'Accettura piuttosto che la rete delle passioni di Cristo con altre culture, perché il dialogo interculturale è proprio lo strumento attraverso il quale io posso dialogare con altre culture, quindi il rapporto con l'alterità. Questo per esempio, questo aspetto, cioè proprio il dialogo interculturale, ha fatto in modo che l'Ufficio del Patrimonio Mondiale si facesse promotore della non presentazione a Parigi della candidatura per il 31 marzo 2011 della Giostra del Saracino. La Giostra del Saracino appunto è stato invitato a non presentarsi perché nel dialogo interculturale c'è questo conflitto storico, cioè il rapporto tra i crociati e i turchi, no? I saraceni che sono stati sconfitti, che è un rapporto, anche se è un conflitto storico, sul quale appunto l'UNESCO, il segretariato del patrimonio intangibile, sta lavorando molto. Diciamo, non ne aveva mai parlato prima del novembre 2010 a Nairobi, in cui appunto la Croazia ha presentato un elemento del patrimonio in cui un miracolo della Madonna ha fatto sì che 500 soldati croati sconfiggessero altrettanti soldati saraceni. Insomma, quindi ora vogliamo dire che, insomma, come diceva prima l'architetto Guido, insomma, non sempre le candidature vengono presentate al modo migliore, insomma, cioè lì era proprio così smaccato il fatto che è proprio il miracolo della Madonna che ha fatto in modo che i 500 croati vincessero i 500 saraceni, che insomma era un po' troppo evidente. Però da allora, dal novembre 2010, l'UNESCO sta cercando di superare questo impasse, insomma, del conflitto storico, cioè il conflitto storico deve risolversi in un'occasione di conoscenza dell'alterità. Quindi che cosa abbiamo suggerito a Arezzo, appunto per la Giostra del Saracino? Abbiamo quello di, attraverso insomma anche le indagini che sono state fatte dal docente di diritto internazionale dell'Università Bicocca, che fin dall'inizio, fin dal 2000, ha lavorato nei rapporti bilaterali per la scrittura materiale della Convenzione del 2003. Mi ho suggerito appunto di prendere contatto con le comunità islamiche che sono nel territorio, insomma, e vedere, insomma, se si può stabilire un rapporto tale che alla fine siano loro stessi a rilasciare un consenso informato per la presentazione all'UNESCO di questa candidatura, di questa proposta di candidatura. Quindi il lavoro appunto sarà molto lungo, perché chiaramente, insomma, le comunità islamiche bisogna distinguere anche, insomma, per non turbare i rapporti che ci sono tra di loro, se sono comunità sciite o comunità sunnite, quindi vedere se ne possono trovare una che abbia un rapporto misto, oppure se bisogna prenderne due. Insomma, il rapporto e l'attenzione è abbastanza grossa, deve essere abbastanza sensata, e quindi non si presentano neppure per il 2012, si presenteranno quando avranno risolto questo problema, insomma, no? E quindi questo è stato questo del dialogo interculturale, insieme all'identificazione delle comunità, è stato il grosso problema, appunto, come ho detto anche a Matera o in altre occasioni, che diciamo così, un po' compromesso il lavoro all'interno delle candidature. E il rapporto con la comunità, perché appunto noi sappiamo appunto che all'interno dell'antropologia culturale comunità è un termine un po' obsoleto, e quello è il concetto che gli sta dietro anche, però insomma l'UNESCO chiede diciamo così, l'identificazione delle comunità, lo chiede in più occasioni all'interno del dossier. E bisogna lavorare perché queste comunità vengano fuori, insomma, che molto spesso sono appunto i portatori di interesse, cioè quelli che materialmente fanno l'evento festivo. Ora bisogna vedere se anche quest'anno, cioè all'interno dei caratteri di devozione, no, per le cerimonie religiose, si può identificare allo stesso modo le comunità, insomma, quindi è una richiesta appunto di un'ulteriore indagine appunto su questo tema delle comunità. Un'altra storia particolare appunto è è legata proprio al concetto, come dicevo prima, immateriale o intangibile, insomma, cioè questo è un altro aspetto appunto che molto spesso provoca degli sbandamenti all'interno dei gruppi che lavorano per la presentazione della candidatura, proprio perché non è chiaro appunto che cosa significa comunità e quindi comunità all'interno del patrimonio intangibile o immateriale, insomma, no? Perché molto spesso le due cose vengono confuse. Oggi abbiamo sentito appunto la questione della comunità di Faro, della comunità che viene messa all'interno della comunità di Faro, che appunto è una comunità, noi abbiamo ratificheremo come eredità, comunità di eredità, altre paesi hanno ratificato come comunità patrimoniale, in cui non c'è più l'interesse nel cercare, diciamo così, il vero portatore dell'interesse per l'elemento che viene candidato, ma diciamo così, è un aspetto un po' più vasto, nel senso comunità patrimoniale può essere qualsiasi persona che ha a cuore, ecco perché allora i volontari sono importanti, ha a cuore la salvaguardia di quell'elemento e quindi, diciamo così, si associa per portare avanti, diciamo così, la salvaguardia dell'elemento, quindi a fare in modo che l'elemento stesso diventi un aspetto, diciamo così, di trasmissione di generazione in generazione, insomma. Quindi questo è un aspetto importante. Un altro aspetto interessante proprio sul dialogo interculturale è la metodologia antropologica storico-comparativa, proprio perché sui conflitti storici, diciamo così, la promozione di questa metodologia può portare un interesse particolare, insomma, no? Cioè quello di far vedere appunto in che modo, proprio nel dialogo interculturale e soprattutto nei conflitti storici, la metodologia storico-comparativa può portare identificare determinati interessi. Ora, mentre nella